al movimento evoluzionista e alla Chiesa Cattolica, ovvero due agenzie ideologiche che per forza di cose dovrebbero contrapporsi, segnalo due casi di psichiatri ugualmente pericolosi. Il primo è quello di chi ha ultimato un profilo del perfetto pedofilo riducendolo al possesso di 7 caratteristiche. Allora, sarebbe una persona apparentemente normale, maschio nel 92% dei casi, eterosessuale, legato da un rapporto di coppia fissa e avvantaggiato da un reddito medio superiore, nonché da una istruzione altrettanto superiore. Il secondo è quello di chi ha trovato una spiegazione di ordine evoluzionistico a quello che lui definisce come un nostro bisogno e che io invece preferisco denunciare come un bisogno altrui soddisfatto da lacrime e sangue tutto nostro. Voglio dire che alcune categorie di persone a questo mondo godano di privilegi è evidente. Che non sempre questi privilegi siano giustificati o che contribuiscano al bene comune è altrettanto evidente. Preti importanti, capi stregoni, scienziati, artisti vari, sportivi, persone dotate di particolari abilità ricevono giustamente la nostra ammirazione fino a che rimangono nell'ambito di quelle loro abilità. Ma nel momento in cui da questo loro ambito sconfinano, non si vede perché debbano godere di particolari privilegi. La cronaca, la nostra esperienza sociale ci fa trovare spesso, troppo spesso, di fronte a palesi ingiustizie, gente che può dire scemenze senza pari senza che nessuno osi sanzionarla in alcun modo, gente che può rubare sotto gli occhi semichiusi dell'autorità, gente che può commettere qualsiasi delitto contro la società di cui fan parte senza pagarne le conseguenze, a differenza magari degli altri membri meno fortunati della medesima società. È quello che nel mio ultimo libro chiamo il sistema delle stelle, no? Lo star system di pre-hollywoodiana memoria esteso fino ai nuovi protagonisti delle professioni ideologicamente funzionali al potere. Questo sistema delle stelle è un sistema nei cui confronti vige ormai come una sorta di obbligo sociale, l'indulgenza più generalizzata, una soluzione dai suoi tanti peccati in nome di un'aura divina che circonderebbe il capo e non solo il capo di tutti i suoi idoli. L'evoluzione naturale, secondo questo psichiatra di turno, giustificherebbe appieno questa nostra indulgenza a causa di un nostro insindacabile bisogno di star. Un paio di esperimenti dovrebbero chiarirci le idee. Li cita lui, è lo psichiatra. Primo, prendiamo delle quaglie femmine e portiamole al cinema. O meglio, più che al cinema, per essere più precisi, in un locale a luci rosse. Mostriamo loro dei filmati in cui si vedano scene di accoppiamento fra quaglie maschi e loro consorelle quaglie femmine. Poi le si riporti a casa e si organizzi loro una specie di cocktail quaglia party in cui ci siano quaglie maschi mai visti e quaglie maschi interpreti dei filmini già visti. Beh, le femmine, dicono gli psichiatri, sceglieranno sistematicamente i maschi già visti all'opera rifiutando gli altri. Il principio darwiniano che ne verrebbe sancito è quello secondo il quale la femmina si assicura il successo riproduttivo scegliendo il maschio già testato al cinema. Secondo esperimento. Abbandoniamo le quaglie sporcaccione e prendiamo dei macachi maschi. come si trattasse, non so, di Fischer Casinò, dotiamoli di una certa quantità del loro cibo preferito e quindi passiamo alle contrattazioni. Offriamo loro fotografie in cambio di cibo. Le fotografie sono di due tipi. Una raccolta delle migliori facce di macachi altolocati nella scala gerarchica e una raccolta delle più lubriche zone pubiche delle migliori macache del momento. Bene, i macachi maschi sono disposti a restituire buona parte del loro cibo in cambio delle fotografie dei maschi altolocati. Anzi, se per caso gli si offrisse, che so, la foto di un macaco metalmeccanico o di un macaco extracomunitario, non sembrano disposti a pagarla neppure una nocciolina. E la stessa zona pubblica di macaca, in fin dei conti, sul mercato non tira più della foto del macaco VIP. Ecco dimostrato come il nostro bisogno di star non sia affatto, come potrebbe dire Lacame, l'indotto di un sistema ideologico funzionale allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma piuttosto l'ineluttabile risultato dell'evoluzione della specie sul pianeta, una delle tante forme di adattamento che più direttamente o più indirettamente garantiscono la nostra sopravvivenza. Tanto è vero che il bisogno di star è addirittura iscritto nel nostro cervello. È qui che lo psichiatra si mette il neuro davanti e ci racconta di un ulteriore esperimento cruciale. Allora lasciamo le quaglie alle loro orge, i macachi al loro autoerotismo e prendiamo questa volta alcuni volontari umani, possibilmente assetati. Offriamo loro due bicchieri di una brodaglia ugualmente marroniccia e chiediamo loro quale dei due gli sia più piaciuto. Tutti in coro diranno che è più buono il contenuto del secondo bicchiere. Poi portiamo loro altri due bicchieri contenenti la medesima roba, però questa volta gli diciamo che nel primo bicchiere c'è della Coca-Cola, mentre nel secondo c'è della Pepsi. Bevono a garganella e tutti in coro, soffocando per quanto possono la bombola di gas che hanno ingerito, tutti in coro diranno che è più buona la Coca-Cola. Il perché ce lo spiega il neuropsichiatra. Allora, nella corteccia prefrontale del nostro cervello ci sarebbe scolpita una sorta di hit parade enciclopedica dove si troverebbe annotato che la Coca-Cola è più famosa della Pepsi, il che sarebbe sufficiente a mettere in moto quelle anime candide delle nostre papille gustative che, sulla base del sentito dire, darebbero da fare affinché il risultato della nostra percezione fosse un gusto più gradevole. Devo render conto di una prima omissione. Alla prima bevuta, quando tutti dicono in coro che è più buono il contenuto del secondo bicchiere, non ho detto che in questo secondo bicchiere c'era della Pepsi, mentre la Coca-Cola era nel primo. Neppure questo, comunque, è servito perché il neuropsichiatra in questione venisse colto dal dubbio su quale delle due aziende avesse finanziato la ricerca. Selezionando quella parte di popolazione che risponde ai requisiti di essere maschio nel 92% dei casi, apparentemente normale, eterosessuale, sposato o convivente, con reddito medio e istruzione superiore, si rimane pur sempre con una cifra di cittadini potenzialmente pedofili piuttosto cospicua. Ma le caratteristiche sono 6 e quelle elencate dallo psichiatra in questione erano 7. Seconda omissione. O a causa di un'interpretazione perlomeno azzardata del noto passo evangelico in cui Gesù si rivolge alle mamme dicendo loro che lasciassero pure che i loro pargoli venissero a lui, o a causa di esperimenti scientifici che, a differenza di quelli che dovrebbero confermare la radice evolutiva del nostro bisogno di star, non ci vengono raccontati, Infatti la settima caratteristica che individuerebbe il perfetto pedofilo sarebbe, secondo il nostro psichiatra, costituita dalla sua fede religiosa. La settima caratteristica è credente. E con ciò, prenotandogli un posto in paradiso, fa sì che nemmeno lì le anime innocenti possano stare in pace.